io di notti. Nella foto mi han colpito i tuoi occhi. Vieni che ti aspetto questa sera. Ho chiamato la tua amica l'altra sera, ma l'ho vista e poi le ho detto un'altra sera. Era bianca e io ti preferisco nera. Vieni qui, sbrigati, io mi faccio un altro drink. Non farti troppo bella o poi mi pento. Scusami, mon ami, ma stasera faccio un film. Domani te lo spiego, non adesso. Scusami, mon ami, questa sera resto qui. E sono fuori a cena con la escort. Degli occhi. Non ho vizio se lo faccio ogni tanto. Ti dispiace se ti chiamo ogni tanto. Non pensavo mi piacessi così tanto. Se continui giuro mi verrà un infarto. Vieni qui, sbrigati, che se bevo troppi drink mi salirà la vodka e poi non riesco. Scusami, mon ami, ma stasera faccio un film. Domani te lo spiego, non adesso. Scusami, mon ami, questa sera resto qui. E sono fuori a cena con la escort. Adesso vuoi ti chiamo un taxi che è tardi. Quel vestito tira troppo gli sguardi. Poi com'è che ci cammini in quei tacchi? Sì, stasera posso dirti solamente che giuro la prossima volta andrà meglio. Non è colpa mia che sono un po' stanco. È che tipo da due giorni sto sveglio. È che tipo da due giorni che... Scusami, mon ami, ma stasera faccio un film.